Le signore. Le signore, sono così sacrificate, sono tanti affarate, e i mariti. E i mariti dicono di no, dicono di no. Tra la sarta, la modista, parrucchiere, cagnolino, non gli resta un momentino per potersi riposare un po', riposare un po'. Ma non basta, no. C'è da fare la canasta, c'è da andare dal profumiere e passare dal gioielliere. Le signore, le signore. Che tormento, sì. C'è una ruga sotto il mento, presto subito un massaggio, pensa un po'. Che batti cuore. Le signore, le signore, le signore. Le signore, le signore. Sono così sacrificate, solo un cinico marito non si sforza di capire. Le signore, le signore, le signore. Le signore, sono così sacrificate, solo un cinico marito non si sforza di capire. Le signore, le signore, le signore.